1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, dai che è venerdì, sono le 7:18 minuti e Aurora Lussana ci ha appena mandato due foto. Prima ho detto a lei, a Chiara Geloni, di mandarci le foto, i vostri selfie o quello che volete. Ci ha mandato due foto e tra poco le metteremo sul nostro profilo Twitter 24 mattino, o sul mio anche, Alino Milan, ovviamente ritwitterò tutto. Evviva, ma dai che è venerdì, che si sta concludendo la 131esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Un po' meno entusiasmo perché è finita nel nulla, e ma la 132esima secondo me ha quel non so che di decisivo che potrebbe in qualche modo... potrebbe in qualche modo regalarci qualche sorpresa. Vedremo. Intanto parleremo del terrore vero e proprio che c'è dopo l'esplosione, il crollo, diciamo, di un aereo russo, forse per una bomba, a Sharm el Sheikh. Bloccati molti aerei, il timore che l'ISIS in qualche modo abbia già vinto con il terrore sparso tra i turisti e le compagnie aeree, soprattutto quelle inglesi, che bloccano i voli per Sharm. Parliamo di questo, della guerra al terrore. Avremo ospite Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri, con Oscar Giannino dalle 8:15. Parleremo di queste tematiche e anche di altre che andiamo a scovare dai giornali. Allora, i titoli in questo venerdì 6 novembre. Il Sole 24 Ore apre sull'industria che riparte più 2-3%, Squinzi che dice usciti dalla crisi. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre Repubblica, povertà, piano INPS sul reddito minimo, ma Renzi dice no. È il tema delle pensioni, è una nuova proposta del presidente INPS Boeri che però sembra già bocciata dal governo. Libero, il piano per tagliarci le pensioni, disegno di legge dell'INPS. Mentre il giornale, tagliano le pensioni, questo è l'allarme dai due giornali orientati sul centrodestra. Anche il giorno, l'INPS sì al reddito minimo, peccato che c'è già un no appunto del governo. Poi il Messaggero, mafia capitale, pentiti e minacce, questo è il titolo di prima pagina. Il Corriere della Sera invece apre proprio sulla paura dell'ISIS, voli bloccati su Sharm. E poi La Stampa, il Papa sulle case, ora si cambia. Come vedete, scelte diverse. Per l'Unità, da Forza Italia a Blocca Italia. Dopo aver paralizzato per 20 anni, le destre riprovano a fermare il paese in ripresa. Questa è l'analisi critica, ovviamente, della manifestazione del centrodestra di questo weekend. Tribuna Politica e invece è il titolo del Manifesto. L'esordio del processo contro mafia capitale si trasforma nella ribalta mediatica dei principali accusati. Ma come detto, il timore di quello che è successo sui cieli d'Egitto. Maurizio Molinari racconta, pagina 6 della Stampa, i piani dell'ISIS intercettati dagli Stati Uniti, confermata la pista della bomba. Anche Barack Obama ha detto: fonti americane fanno trapelare l'idea di bomba, una bomba a bordo. Quali fonti? Beh, primo, e quali dettagli? A esplodere è stata una bomba posizionata in un contenitore, forse una valigia. Secondo dettaglio, di cui sarebbe venuto in possesso l'intelligence americana come notizia, l'esplosivo era di tipo convenzionale. Terzo, è stato probabilmente un addetto ai servizi aeroportuali a posizionare il contenitore a bordo. Ecco dunque che Obama dice l'ipotesi è possibile. Egitto e Russia dicono sono speculazioni. Tra l'altro il Corriere della Sera fa sapere che di fronte si sono visti di recente a Londra, due giorni fa, proprio dopo l'esplosione, il premier Cameron e il presidente egiziano Al-Sisi, e come dire, è stato un confronto molto, molto duro, molto serrato. Come racconta Francesco Battistini a pagina 2 del Corriere della Sera, più sì che no, dicono gli inglesi per quel che riguarda la bomba, più no che sì, dicono e ribattono gli egiziani. Né sì né no, commentano i russi. L'uscita, questa sì, bomba di David Cameron sull'ipotesi che un ordigno a bordo abbia fatto esplodere l'aereo russo sul Sinai si basa su informazioni di intelligence. E allora Cameron ha incontrato un furibondo presidente egiziano dicendogli: ho simpatia per l'Egitto, ma la sicurezza degli inglesi viene prima. Mentre Al-Sisi ha risposto: capiamo le vostre preoccupazioni, ma se anche fosse una bomba non si capisce perché abbiate fermato i voli, visto che 10 mesi fa un team inglese sulla sicurezza dell'aeroporto di Sharm ha detto: siamo soddisfatti. Sta di fatto che i voli sono bloccati anche dall'Italia, ci sono anche dei turisti lì, avremo ospite anche una persona che da Sharm el Sheikh ci può raccontare com'è la situazione, se si vive come dice il Corriere a pagina 3, nello shock tra i turisti. Il ministro alla difesa Roberta Pinotti, intervistata sempre dal Corriere della Sera a pagina 5 da Paolo Lepri, rassicura: con l'ISIS non stiamo perdendo. Parla anche delle decisioni italiane di bombardare in Iraq. I paesi che compiono raid aerei sono tanti, dice il ministro Pinotti. Quindi se l'Italia scegliesse di fare gli strike, lo scenario non cambierebbe molto. Il lavoro di ricognizione che stiamo effettuando è molto utile perché i terroristi si infiltrano tra la popolazione civile. Ricordiamoci che in Iraq combattiamo l'ISIS. Non sottovaluto le dimensioni di questa sfida. Ho chiesto per questa ragione che il nostro fosse un contingente significativo. Così Roberta Pinotti, che ribadisce: bombardare in Iraq non è un tabù. Sapete che questa notizia già di recente aveva creato malumori e polemiche in Italia. A proposito di Italia, io vorrei dare un bacio in fronte a tutti i governatori, a tutti i presidenti delle regioni se fanno questa iniziativa. L'obbligo di certificazione di vaccino per i bambini per iscriversi a scuola. Ebbene sì, è una posizione che prendo sicuro anche delle critiche di chi mi dirà subito che sono pagato dalle multinazionali, ma purtroppo il conto in banca alla fine del mese non vede entrate dalle multinazionali. Il primo sì delle regioni: a scuola solo chi è vaccinato. Questa è la posizione delle regioni che hanno trovato un'intesa sul piano del governo per l'obbligo di certificazione. Serve però una legge, anche perché una legge c'era fino al 99, l'abbiamo tolta e quindi va rifatta. Comunque tutti i giornali danno ampio risalto a questa vicenda che riguarda tutti gli italiani, perché tutti i bambini vanno a scuola, tutte le famiglie sono interessate. I governatori dicono sì al piano di vaccinazione biennale del governo e un punto molto delicato su cui si sta discutendo in queste settimane è l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola, gli eventuali provvedimenti disciplinari anche a carico dei medici che si sottraggono a questo obbligo, cioè i medici obiettori delle vaccinazioni. Anche questo è un punto sul quale il governo pensa a delle sorte di punizioni o comunque di sanzioni. Repubblica mette questa notizia in prima pagina: senza vaccini niente scuola e saranno puniti i medici obiettori, e dedica poi 2 pagine a questo tema, 16 e 17, vaccini obbligatori per iscriversi a scuola. Le regioni danno il via libera a questo piano, servono però finanziamenti per 300 milioni per finanziare il piano vaccini. Ci sono le interviste ai pro, ci sono le interviste ai contro, io sono totalmente pro. Anche il Messaggero: in classe solo col vaccino, il sì delle regioni, e anche la Stampa dedica una pagina a questo, visto che se uno va non vaccinato mette in pericolo la salute di tutti gli altri bambini. Oh, se siete curiosi potete scoprire a pagina 7 di Repubblica Aldo Fontanarosa i redditi dei consiglieri di amministrazione della RAI, redditi fino all'anno scorso. La presidente Monica Maggioni ha guadagnato 242.810 euro. Poi ci sono i consiglieri: Arturo Diaconale 139.000 euro dichiarati, Franco Siddi 129.000 euro, questo più o meno è la media, Paolo Messa 136.000 euro, Carlo Freccero 178.152 euro, Guelfo Guelfi è l'ultimo dei consiglieri, 38.540 euro per il 2014, non era Viale Mazzini, vabbè. Se volete i redditi dei consiglieri RAI li scoprite a pagina 7 di Repubblica e andiamo avanti. Parla dal carcere Mario Mantovani, il vicepresidente della Regione Lombardia, arrestato. Per la verità non è un'intervista di Giuseppe Guastella, ma attraverso l'avvocato Roberto Lassini, che ha preso le domande, le ha portate a Mantovani, ha risposto a queste domande Mantovani. Ecco qui l'intervista sul Corriere della Sera. Io in carcere per invidia sociale. Parla Mantovani, come ricordo l'arresto, ancora non ho una percezione reale di ciò che è avvenuto, vorrei pensare a un incubo, se non fosse che sono stampate nella carne le lacrime di mia figlia Lucrezia, il coraggio di mia moglie Marinella, la forza d'animo di mio figlio Vittorio. Mi ha dato fastidio sapere di essere intercettato 4 anni senza ricevere un avviso di garanzia. E riguardo a Berlusconi, ha chiamato la mia famiglia, questo mi basta. Ha espresso anche sostegno, affettuosa vicinanza con messaggi televisivi. Poi Mantovani parla della sua vicenda. Non ho mai procurato incarichi all'architetto Parotti, per le sue prestazioni è sempre stato ampiamente retribuito. È un professionista in gamba, ha lavorato per oltre 10 anni per le cooperative da me fondate, con un compenso superiore a 500.000 euro. E senta, l'appalto per i dializzati per i quali è accusato è una bufala, risponde Mantovani, una bufala che quel pagliaccio di Crozza utilizza per fare satira e per tale ragione sarà querelato. Le cose sono andate così, mi chiama l'assessore al bilancio Garavaglia, che stimo molto, e mi segnala le lamentele di un'associazione di volontariato dedita al trasporto malati. Prometto un interessamento, anche se poi preferisco soprassedere trattandosi di una gara d'appalto. Da assessore alla salute non mi sono mai occupato di appalti. Ho chiamato il direttore dell'ASL limitandomi a pregarlo di esaminare il problema e non mi sono più occupato della questione. Insomma, si difende Mario Mantovani, ex vice di Maroni, in questa intervista dal carcere. Ma eccoci qui all'articolo che mi fa pensare oggi e fa tenere a voi tutti, se siete alla guida, le mani sul volante e tazzine di caffè bollenti da appoggiare. Prima pagina di Libero, Matteo Pandini racconta Iara, la partita doppia del capo dei RIS. Il comandante dei RIS di Parma, Gianpietro Lago, questa è la notizia, ha lavorato sul caso Iara Gambirasio in una doppia veste. Uomo dell'arma e biologo di fiducia del PM, incassando oltre al normale stipendio una liquidazione che né l'interessato né la procura di Bergamo intendono rivelare. Insomma, delitto Iara, scrive Libero, il capo dei RIS ha lavorato sul caso come comandante della scientifica, dunque super partes, ma è stato anche incaricato dal PM che indagava di una consulenza privata come biologo. Consulenza pagata? Non rispondo. Così il capo del RIS. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Oh Lino, dico, ma te sei proprio imbriaco di mattina buonora? Ma proprio te sei imbriaco, te ne sei bevuto, ombre? Vabbè, ma devo commentare. No, devo commentare. No, andiamo avanti. Allora, le notizie dai giornali. Oh, è un nuovo possibile confronto, diciamo così, tra il presidente dell'INPS Tito Boeri e il presidente del Consiglio Matteo Renzi, quello che viene fuori dai giornali, perché 2 giorni fa, racconta Repubblica, Boeri è andato a Palazzo Chigi e con Renzi si è concordato di rendere noto il piano che Boeri aveva previsto da giugno. Se ne parlava qualche giorno fa sui giornali, con alcune proposte. E tutto è stato reso pubblico. Quali sono le proposte di Boeri in tema di previdenza e in tema di abbattimento della povertà? Questo è l'intendimento del presidente dell'INPS. Eccolo qua, pensioni, la proposta di Boeri, reddito minimo ai 55 anni. Abbattere la povertà riducendola almeno del 50% fra chi ha più di 55 anni di età, garantire una transizione più flessibile dal lavoro al non lavoro e viceversa. Ecco in sostanza il piano presentato da Tito Boeri riservatamente al governo e ora reso pubblico. Le proposte forti contenute in questo piano di 69 pagine sono due. La prima è il reddito minimo garantito di 500 euro, poi a scendere 400 euro nel 2016-2017, al mese per una famiglia con almeno un componente ultra 55enne in situazioni di difficoltà. Il piano è finalizzato al reinserimento lavorativo, finanziabile con 1 miliardo e 200 milioni che deriverebbero dalla rimodulazione delle prestazioni assistenziali percepite al di sopra di 65 anni di età da quel 10% di popolazione che percepisce redditi più elevati, cioè circa 230.000 famiglie. Il secondo capitolo è quello previdenziale sulla flessibilità in uscita, per ora però respinto. In realtà il governo ha già respinto entrambe le proposte rese pubbliche ieri. Infatti Repubblica la mette così: reddito minimo ai poveri con tagli ai pensionati agiati. No, di Renzi. L'idea è questo: dare soldi, reddito minimo ai 55 anni, togliendo un po' di soldi ai pensionati più agiati. E perché Renzi ha detto di no? Beh, lo spiega Roberto Mania, a pagina 2 di Repubblica, perché tutto ciò vorrebbe dire perdere voti, in sostanza. Riassumo l'intervento di Mania: questione politica, se si preferisce, di consenso politica, voti, insomma. Poi certo c'erano anche gli aspetti finanziari, ma le questioni di priorità politiche sono queste. Renzi ha una sua agenda da questo punto di vista: la casa nel 2015, le imprese col taglio dell'IRES nel 2016, le pensioni nel 2017 e infine le aliquote IRPEF nel 2018. Invece fare quello che proponeva Boeri voleva dire mettere le mani su pensioni basse, quelle intorno ai 2.000 euro, questo ha detto Renzi. Cosa tecnicamente non vera, scrive Repubblica, visto che Boeri propone di intervenire a partire dagli assegni dai 3.500 euro in su, ma politicamente è rilevante. Renzi non considera questo il momento in cui chiedere un contributo ai pensionati d'oro o d'argento che siano, anche perché su questa materia c'è il rischio di incappare in un giudizio di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. E dunque, belle proposte, ma non vogliamo drammatizzare. Così il responsabile economico del PD, Taddei, intervistato dalla Repubblica, sintetizza il no a Boeri. Si apre un nuovo confronto, chi lo sa. Saltiamo alle vicende vaticane, che anche oggi hanno la loro pena sui giornali. Un Francesco, Papa detto amareggiato, descritto così da Andrea Tornielli, vaticanista della Stampa, a pagina 3. Francesco non ha perso la pace, ma è amareggiato per il tradimento di due collaboratori infedeli, però non preoccupato per il contenuto dei documenti divulgati. Anche se, dice la Stampa, ora su una cosa vuol subito cambiare, sulle case, l'assegnazione delle case, sempre lì, gli italiani che siano porporati o non porporati, laici o sacerdoti, sempre sulla casa. Il cardinal Bagnasco, capo della CEI, quindi dei Vescovi, dice al Corriere della Sera, intervistato di Gian Guido Vecchi, ma anche a Repubblica, rilascia un'intervista, intervistato da Paolo Rodari: c'è qualcosa di veramente diabolico in tutto ciò, tira in ballo il diavolo, e sebbene sì, alla lettera, qualcosa che divide e mira a dare l'immagine di una distanza tra il Papa e la Chiesa. Case, il cardinal De Paulis, intervistato da Giacomo Galeazzi in Vaticano, fa un po' una difesa come il più celebre cardinal Bertone: non vivo in 450 metri quadri, sono 250 e ci abito con due suore. Anche lui, come Bertone, sminuisce la portata dei metri quadri e poi dice: condivido con due suore. Comunque, se il Papa me lo chiede, sono disponibile a trasferirmi in un appartamento non lussuoso, anche un monolocale. E anche la Monica Cirinnà, senatrice, relatrice per Unione Civili, tirata in ballo sulla casa. Lei dice: è una menzogna. Ma davvero credete che una come me, laica, e un marito come il mio, Esterino Montino, comunista, siano andati a chiedere una casa ai preti? È fango vecchio che torna a girare. Nel 98, e mio marito era assessore ai lavori pubblici, parlava ogni giorno coi preti per il giubileo, seppe di una casa che era senza finestre, coi pavimenti rotti e le siringhe infilzate nei muri. E mannaggia, che... Comunque avevamo entrambi appena divorziato, ci serviva e 150 milioni di lire di lavori ce le hanno scalate dalla pigione. Ora siamo ancora in affitto da privati in 50 metri quadri. Vabbè, e invece Bertone rideva, secondo un'intercettazione che Repubblica mette a pagina 21, Giuliano Foschini, siamo nel 2013, parla al telefono con Profiti della Fondazione Bambin Gesù e Profiti informa il cardinale che la Fondazione Bambin Gesù è stata beneficiata di 80 milioni di euro dalla legge di stabilità, legge finanziaria, mentre il Gaslini di Genova, città di Bertone, Genova, ha preso solo 5 milioni. E allora Profiti, per la verità è lui che ride, se la sono un po' presa a Genova, e Bertone commenta, 80 a 5, capito? 80 milioni a noi e 5 a loro. E Bertone rideva sui soldi agli ospedali. Roma batte Genova 80 a 5. Capito Mauro Beazza? 80 a 5. Buongiorno. Non ho capito perché questi accostamenti comunque sempre con vicende diciamo erano poco, punteggi calcistici più o poco meno poco dignitose. Ah già, innanzitutto, ma oggi è martedì o è venerdì? Oggi è venerdì, no? Per te sarebbe martedì, dovresti lavorare anche domani, dopodomani, però è venerdì. Non è detto che io non lo faccia comunque. Va bene. Quindi vediamo, no, se fosse martedì ci sarebbe la pagina di condominio, ma l'ho provato. Poi il condominio lascia stare di questi tempi col Vaticano. Sì, ma infatti per quello che sentivo parlavi di appartamenti, case, vetrature. No. Va bene, allora, visto che siamo sul tema delle case, legge di stabilità, sappi che sono ore decisive, lo dico io, sono ore decisive per la presentazione delle richieste di modifica al disegno di legge di stabilità. Ne riferiamo sul Sole 24 Ore, nelle primissime pagine, tra le richieste di modifica appunto anche quelle che vengono dalla minoranza PD per la parte della TASI, appunto, quindi parliamo di case. Ma lunedì sarà una giornata ancora più decisiva perché sono attesi i ritocchi da parte del governo. Ma se leggi il Sole 24 Ore ti spieghiamo poi tutto, così come ti inviterei a leggere, come sempre devi fare, le pagine di norme e tributi, dove ti segnaliamo la possibile restare nel cosiddetto regime dei minimi. Tu non so che tu vivi beatamente ignorando questi aspetti, ma invece sono molto importanti. Tra l'altro si può anche usare il super ammortamento al 140%. Mi stai seguendo? Ti seguo. No. O annuisci solo così, in modo pedisseco, senza veramente condividere? Vabbè, non importa, leggi come sempre norme e tributi. Guarda che troverai in norme e tributi anche una decisione a Cassazione che potrebbe essere importante sui tutor. Sai, quegli strumenti di verifica della velocità sulle autostrade? Ecco, perché c'è un contenzioso annoso, vien da dire, sul brevetto dei tutor. Adesso la Cassazione ha deciso che bisogna ritornare in giudizio per capire chi ha ragione, se il sistema è stato copiato oppure no. Ma spieghiamo tutto in norme e tributi. Avrai visto nelle prime pagine ci sono un po' di notizie da dita incrociate. Sì. Beh, forse va un po' meglio. Si parla di un nuovo cominciamento. Hanno usato proprio questo termine. Cominciamento. Il che vuol dire, forse non è che sia proprio finita la crisi, ma insomma si apre una fase diversa. Lo speriamo tutti. Poi ho visto che sei molto interessato alle vicende vaticane. E allora, in ultima, proprio così, prima di augurarti naturalmente un sereno sabato sera, ti faccio tanti cari auguri per il tuo sabato, il tuo sabato sera anche, soprattutto. Anche per il tuo weekend, non so, domenica pranzo, il tuo pranzo di domenica, credo. Domenica pranzo, effettivamente, sì, per te un ottimo sabato, per me un'ottima domenica. Ti vorrei parlare del turismo religioso, perché anche di questo parliamo oggi sul Sole 24 Ore. Sai che si attende oramai a poche settimane il giubileo e il turismo religioso è per noi una voce molto importante. Infatti ne parliamo su Imprese e Territori, nelle pagine di Imprese e Territori, oggi sul Sole 24 Ore. È sempre venerdì? Eh sì. Ah, va bene. E allora, buona domenica e buona fine settimana a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto, traffico! Wow, this is George Clooney, and I also like listening to 24 Mattino. Oh, oggi George saresti molto utile alla causa, molto utile alla causa. Perché c'è un dramma nel dramma all'interno del processo Mafia Capitale, come raccontano i vari cronisti, processo Mafia Capitale che si è aperto ieri, e il dramma è che sostanzialmente ci sono i cronisti della BBC che non sapevano come tradurre alcune delle intercettazioni, per esempio infame frascico, abbiamo deciso prima che potrebbe essere wet infamous. Non lo so per la BBC, però ti apro in due come una cozza, come si dirà? Non lo so, c'erano i cronisti della BBC, come racconta Mario Aiello a pagina 3 del Messaggero, questo è il lato, se volete, ovviamente curioso di questo processo ben più serio, che non sapevano come fare, cioè si aggiravano a dire come si traducono, come potrò tradurre tapro come una cozza, infame frascico, altre espressioni citate, ercecato, come lo traduciamo ercecato in inglese. Comunque sta di fatto che Mario Aiello racconta il processone al marcio di Roma tra Pizzini e campagna elettorale. Tra l'altro è comparso Luca Odeven, 11 mesi in carcere, alle 9.33 del mattino, racconta Silvia Barocci sul Messaggero a pagina 5, in fila traferato la porta dell'aula Occorsio, chi lo riconosce prova a fermarlo, lui non si ferma e racconta comunque ho sbagliato ma ora collaboro a Roma. Comunque, dice Odeven, non c'è un sistema mafioso e tra l'altro non ho più sentito Veltroni e il PD. Ho comunque sbagliato, dice lui poi in un colloquio con il Corriere della Sera, Luca Odeven, ma ora appunto collaboro, dice in questa intervista che trovate solamente sul Corriere della Sera. Veniamo alla politica. Prima però, a proposito di Roma, c'è invece Beppe Grillo che a Roma ieri ha incontrato alcuni dei suoi e poi ha fatto queste dichiarazioni, come al solito dichiarazioni così, mentre camminava con i giornalisti che cercano di strappargli qualche frase. A Roma bisogna licenziare, questo è il titolo di Repubblica pagina 13. Non dobbiamo prendere in giro i romani, ha detto Grillo. Nell'immediato futuro, se governeremo, ci saranno effetti collaterali pesanti. Azzereremo le amministrazioni, avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere perché, persone che perderanno il lavoro. Poi ha aggiunto, purtroppo non abbiamo il reddito di cittadinanza, se ci fosse andremmo alla grandissima. Ma i romani devono capire che qui i miracoli non li fa nessuno. Solo così nel medio termine questa città potrà cambiare, questo ha detto Beppe Grillo. Per quel che riguarda invece sempre la politica, ormai il dado è tratto, Berlusconi andrà a Bologna domenica a parlare alla chiusura della manifestazione voluta soprattutto dalla Lega per il cosiddetto Blocca Italia, era nata così, 3 giorni di protesta, di manifestazioni, Berlusconi andrà. Finalmente si è deciso dopo qualche giorno di tentennamento e oggi Salvini fa un'intervista alla Stampa, intervistato da Alberto Mattioli a pagina 12, dice: beh, verrà Berlusconi, è il benvenuto sul palco, però chiuderò io, nasce così il fronte anti Renzi. E poi Salvini dice anche: altro che felpa, a me piace la camicia bianca, simbolo che la sinistra ci ha scippato e ora la rivoglio indietro. Comunque un Berlusconi criticato per esempio dall'Unità, come dire, Berlusconi ridotto a spalla di Salvini. Ma anche alcuni nei suoi, alcuni all'interno di Forza Italia sono critici. Per esempio il direttore del Foglio Giuliano Ferrara ha detto: questa è la fine della parabola di Silvio Berlusconi, il fatto di andare in piazza da Salvini. Vabbè, siamo quasi in chiusura. Trovate varie notizie ancora di esteri, ma ci occuperemo soprattutto di quello che è l'ISIS. Beh, soprattutto la polemica che ha coinvolto l'inviato ONU per la Libia, per cercare di mettere pace tra le fazioni in Libia. Bernardino León finisce il suo incarico tra i veleni perché va negli Emirati Arabi Uniti per un lavoro da 50.000 euro al mese. È solo che gli Emirati Arabi Uniti sono una delle due delle parti coinvolte nella Libia, e quindi l'inviato ONU pagato dagli Emirati bufera su Leon 50.000 euro al mese per un lavoro offerto dai nemici della fazione di Tripoli. Questo lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, va su Repubblica, ma sul Corriere della Sera, un po' ovunque. C'è una vicissitudine per Gigi D'Alessio, come racconta Il Giorno: andrà a processo per rapina perché è l'accusa di aver aggredito due paparazzi. Una pagina del Giorno: i due paparazzi aggrediti da Gigi D'Alessio. Lui dice: gli ho strappato solo le telecamere, le macchine fotografiche, però insomma va a processo, che devi fare. Eccola qui, però voglio cercare la carta costa, ma perché non la trovo? Non la trovo la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali era qui, c'era, ve lo giuro. Eccola qui, una pagina dedicata a Briatore. Flavio Briatore, mio figlio ha 5 anni, ma gli parlo da adulto. Ma chi se ne frega! Eccolo qui.